anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma e Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Forza signori, tra l'altro potete mandare la vostra sigla, magari mandate un audio via WhatsApp al 349-238-6666 come questo ascoltatore, perché è un ascoltatore, la gente non ci crede, ma sono ascoltatori che ci mandano queste sigle straordinarie e poi vengono eletti a sigle della rassegna stampa. Potete fare quello che volete, mandate l'audio al numero WhatsApp che vi ho detto, ripeto 349-238-6666, e magari potrete diventare la sigla della rassegna stampa, chi lo so, di 24 mattino. Siamo qui alle 7:20 minuti in punto, forza con la lettura dei giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Ecco, questo è padre Livio Fanzaga, questo è il direttore di Radio Maria. Non è che potete diventare direttore di Radio Maria, prima preti e poi direttore di Radio Maria, per fare la sigla della rassegna stampa. Però in questo martedì 6 dicembre, eccoci qui, ovviamente tutti i giornali oggi, e lo faranno per giorni, raccontano la crisi politica in Italia. Intanto il Sole 24 Ore, la lettura attraverso i mercati finanziari, il no non scuote borse e spread, questo è il titolo di prima pagina. E poi veniamo a Renzi, dimissioni congelate, questo è il titolo del Corriere della Sera. Così il Messaggero, Renzi lascia dopo la manovra per Avvenire, voto caldo, crisi congelata. E il Manifesto mette la foto del Quirinale, e cioè il palazzo dove siede il Presidente della Repubblica, il titolo è Ghiaccio bollente. Repubblica, Renzi, voglio subito il voto. La Stampa, Renzi, vorrei mollare tutto. Come vedete poi ognuno ha la propria lettura. Il Giorno, Renzi preme, voto a febbraio. Mentre il Fatto Quotidiano ha Renxit, che ricorda molto la Brexit. Il Giornale, il no tradito, c'è aria di truffa, Renzi non si dimette, mentre La Verità, il furbetto del governino vuole comandare ancora. Per Libero, cercasi tappabuchi per sostituire Renzi, mentre L'Unità ha un, come dire, ben augurante per Renzi, avanti, avanti, come dire, Mattarella per il momento ha congelato tutto. Partiamo proprio da qui. Leggo da pagina 2 del Corriere della Sera, Dino Martirano. Al Quirinale, il primo segmento della crisi di governo è stata chiusa in meno di 24 ore. Il Presidente della Repubblica, che avrebbe chiesto più tempo a Renzi per il passaggio di consegna a Palazzo Chigi, ha ottenuto che il governo dimissionario resti congelato fino a venerdì o sabato, o se serve anche oltre, per permettere al Senato di varare senza modifiche, con una fiducia tecnica, la legge di stabilità. Secondo questo calendario provvisorio, le consultazioni per la formazione del nuovo governo partirebbero all'inizio della prossima settimana. Il nome del ministro dell'economia Piercarlo Padoan è ancora in pole position per l'incarico. Il congelamento delle dimissioni voluto dal Quirinale non è spericolato né spregiudicato, tant'è anche di recente una manovra simile si rese necessaria nel 2011, quando Berlusconi congelò le dimissioni del suo governo per 4 giorni in modo da varare la finanziaria. Ovviamente questo è quello che succede tecnicamente, poi è un profluvio di analisi, retroscena. L'analisi per esempio di Massimo Franco, sempre sul Corriere della Sera a pagina 3. Mattarella, le prese coi tormenti del PD, la preferenza del Premier per Padoan. Fare presto, questo è quello che vuole Sergio Mattarella, che si trova a pilotare la prima sfida davvero impegnativa del suo settennato con una maggioranza ancora intatta guidata dal PD. Imperativo è quello di limitare al massimo il suo interventismo e non oltrepassare mai l'ambito delle proprie prerogative, chiedendo alle altre istituzioni di fare lo stesso. Il Presidente della Repubblica sa che il limite della sua opera di convinzione sono i numeri del PD in Parlamento e che almeno all'inizio la crisi si gioca tutta dentro il Partito della maggioranza. Nell'ottica renziana, scrive il Corriere, un esecutivo dai confini circoscritti permetterebbe ad alcuni collaboratori di restare a Palazzo Chigi, a cominciare dal sottosegretario Luca Lotti. Però qui bisogna capire qual è l'umore di Renzi dopo il discorso, certamente da statista, del passo indietro, del me ne vado, del volevo tagliare le poltrone, l'unica poltrona, visto che ho perso, che si taglia è la mia. Ora bisogna capire che farà Renzi. Due letture diverse sono quella che dà La Stampa con Francesco Bei. In prima pagina: devo staccare, voglio prendermi una vacanza con Agnese. Questa è la sensazione di Renzi, che ha sbollito solo in parte la rabbia e la delusione per il risultato del referendum e che dice: mi piacerebbe staccare per davvero, prendermi un anno sabbatico, magari andare negli Stati Uniti, ma i miei amici del PD non me lo permettono. È incredibile. Sono l'unico che voglio togliermi subito da qui. Sembra assurdo, ma non riesco ad andarmene. Di solito i miei predecessori facevano le barricate per restare, io invece voglio togliermi di torno e non ce la faccio. Questa sarebbe la lettura, secondo La Stampa, è la lettura di Matteo Renzi. Matteo era tentato dall'anno sabbatico, voglio togliermi di torno, avrebbe mandato anche un SMS ad Angela Merkel, non torno indietro. Ovviamente, essendo retroscena, sono tutte ricostruzioni dei giornali, però insomma accreditate dall'autorevolezza di chi scrive, ovviamente. Dall'altra parte Repubblica invece ipotizza questo scenario che già ieri avevamo prefigurato qui dopo la sconfitta. Goffredo De Marchis, prima pagina: è un Renzi che vuole andare subito al voto, sta maturando l'idea. Una folle idea, la definisce Repubblica. Come vedete è esattamente il contrario di quello che scrive La Stampa. Da una parte l'anno sabbatico, su Repubblica invece la folle idea è questa: il rilancio immediato, il contropiede costruito sul 40% del sì per giocarsi l'ennesima partita della vita. Il disegno prende corpo in un vertice del PD a Palazzo Chigi. Intorno al tavolo ci sono Matteo Renzi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Maurizio Martina e Matteo Orfini, l'asse sinistra renziani doc. Sono i sostenitori delle elezioni anticipate, della ripartenza volante sulla base dei 13 milioni di italiani fedeli alla riforma. Il premier pensa che si possa andare a votare al voto anche a gennaio-febbraio, praticamente dopodomani. E come? Con l'Italicum alla Camera, dopo le correzioni della Corte Costituzionale, e il proporzionale con sbarramento al Senato. Non lascio la bandiera delle elezioni anticipate a Grillo e agli altri, avrebbe detto Renzi. Se lo facciamo il PD è morto, fa la fine che ha fatto dopo aver appoggiato il governo Monti. È un piano azzardato, ma il braccio destro Lotti certifica tutto con un tweet all'arrembaggio: abbiamo preso il 40% nel 2012 e 2014, ripartiamo dal 40% di domenica, il piano è definito. Sarebbe Renzi a portare il paese al voto da presidente del Consiglio dimissionario, ma il Quirinale non accetterà mai un vuoto di potere lungo due mesi. Allora Renzi potrebbe addirittura non dimettersi più, rimanere in carica poche settimane per arrivare al traguardo dell'urna. Nessuna successione, no a governicchi, governi tecnici, men che meno un nuovo premier del PD, sono incompatibili con l'obiettivo inquadrato nel mirino, che è uno: le urne. Vedete, allora, anno sabbatico o non lascio quest'arma a Grillo, quella delle elezioni anticipate. Il leader vuole le elezioni subito. Quale delle due facce di Renzi è quella buona? Anche qui, lascio tutto oppure, come scrive il Corriere della Sera, pagina 5, retroscena di Maria Teresa Meli, resterò alla guida del partito? Maria Teresa Meli racconta questo: vuole rimanere alla guida del partito e punta alle elezioni anticipate. Staremo a vedere. Intanto una cosa è certa: all'interno del PD volano, oltre agli stracci, i coltelli. La risata di Massimo D'Alema, che ieri gongolava come altro che, stavo dicendo, come se la Roma avesse vinto il derby, ma chiaramente era in sottofondo la gioia per il derby vinto dalla sua Roma, per D'Alema. Era molto più gaudente per la sconfitta di Renzi, per Guardate qui Bersani. Ieri Bersani è andato da Nemo, Nemo, programma di Rai 2, intervistato da Enrico Lucci. Una battuta a Renzi? Stai sereno. Cioè, ma vi rendete conto il livello proprio di odio viscerale? Odio. Cioè, parliamoci, questo si chiama odio. Odio tra persone, proprio, che c'è all'interno del Partito Democratico. Poi le chiameranno divergenze, dibattiti. Odio profondo, che è tipico del partito in cui appena uno prende il potere, dal giorno dopo lui si coalizza con alcuni fedelissimi e attorno fanno di tutto per accoltellarlo alla schiena. Eccolo qui, la minoranza del PD in cerca di leader, Bersani, Matteo stai sereno, pagina 6 di Repubblica. Vabbè, diciamo che continueremo la lettura della politica, perché gran parte degli articoli della rassegna stampa oggi sono dedicati, e lo saranno nei prossimi giorni, a questo, anche dopo la pubblicità. Prima però, all'interno di questo dibattito, proprio l'articolo che mi fa pensare della giornata. Torna anche oggi l'articolo da Mani sul volante, se siete alla guida, è la battaglia del vitalizio. Elisa Calessi racconta su Libero a pagina 5 che c'è un esercito corposo, un esercito compatto, numeroso e forte. Sono 600 tra deputati e senatori che matureranno il diritto all'assegno vitalizio il 15 settembre 2017. È un'assicurazione contro le urne. Sono loro più che gli altri, questo partito trasversale che punta a questa data e che quindi non vorranno mai lo scioglimento delle Camere e il voto anticipato. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, il Barlafus dell'informazione. E Ale, allora alle 7:36 minuti, allora che farà Renzi? Certamente, come racconta Fabio Martini sulla Stampa, continuiamo a leggere, come dire, in retroscena di quello che sta succedendo alla presidenza del Consiglio, è un Renzi molto più inquieto, irregolare e dirompente rispetto a quello apparso l'altra sera 75 minuti dopo la chiusura delle urne referendarie. Ieri, conferma Fabio Martini sulla Stampa, nel Consiglio dei Ministri ha tentato questa sorta di contropiede. Per come si è svolta la campagna referendaria e il voto, credo che quel 40%, cioè quelli che hanno votato sì, appartenga tutto al PD. Abbiamo ottenuto più di 13 milioni di voti e 2 milioni in più rispetto alle europee. Per questo vi dico che a noi potrebbe convenire puntare a elezioni anticipate da fare il prima possibile. E con quale governo? Con questo! A chi, come Franceschini, obiettava la fattibilità di un piano così hard, Renzi ha aggiunto: possiamo fare un quarto governo non eletto? E quanto all'Italicum, sub iudice della Corte Costituzionale, potremmo recepirne le indicazioni e andare subito al voto. Che è quello che vuole anche, guardate, Alfano, che rilascia un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Fiorenza Sarzalini, pagina 10. Niente accanimenti, si voti a febbraio, insieme a Matteo possiamo vincere. Non sono autorizzato a riferire quello che ci siamo detti io e Renzi, ma posso fare un pronostico sulla volontà di andare a elezioni a febbraio. Naturalmente sarà il capo dello Stato Mattarella a decidere, non noi. Ecco, questa è un'altra cosa che i politici mettono sempre avanti. Dice: no, per carità, alla fine sarà il Quirinale a decidere. In realtà vogliono decidere i partiti, questo è sempre chiaro. Certamente, dice Alfano, manteniamo la posizione di autonomia, ma con un giudizio positivo su quanto abbiamo fatto insieme in questi anni. E anche Alfano dice: abbiamo incassato il 40% al referendum. O si continua a non contare o a far finta di non vedere che probabilmente moltissime di quelle persone che hanno votato sì, forse hanno votato anche proprio perché volevano cambiare la Costituzione, banalmente. Non gliene frega niente di stare con Alfano, Renzi, Berlusconi, Brunetta, Salvini, 5 Stelle. Cioè, hanno votato nel merito, però è così, cioè, si parte da questo 40%. Alfano, tra l'altro, respinge l'idea di governi tecnici. Mi sembra superfluo esprimere un giudizio su chi sarà tra Padoan, Grasso, eccetera, perché è una ipotesi. Siamo molto lontani da quell'ipotesi. Questo Alfano. I 5 Stelle anche loro vogliono votare, e vogliono votare con le modifiche che forse arriveranno all'Italicum da parte della Corte Costituzionale, e poi l'estensione dell'Italicum anche al Senato. Ed è un dietrofronte, è un testacoda, come racconta Annalisa Cuzzocrea, perché loro in realtà avevano un piano di legge elettorale, il cosiddetto Toninellum, che è previsto, è stato elaborato da Toninelli, deputato 5 Stelle, che tra l'altro sarà nostro ospite alle 8:20, un modello di fatto proporzionale. E invece Grillo e Casaleggio hanno preso in considerazione tre strade: restare al Toninellum, la seconda strada, far rivivere l'idea cara al PD del Mattarellum, e poi ha vinto invece la terza via, fare un testa coda e scegliere l'Italicum, sia alla Camera se verrà modificato dalla Corte Costituzionale ed estenderlo al Senato. Ragazzi, chi ci capisce, beato lui o beata lei. I commenti. Ernesto Galli della Loggia racconta le cinque ragioni della sconfitta. Prima pagina del Corriere della Sera. Quali sono queste cinque ragioni, secondo Galli della Loggia? Primo, il profluvio dell'ottimismo, degli annunci sull'uscita dal tunnel, del ce la stiamo facendo, ecco ormai ce l'abbiamo fatta. Ai tanti italiani che viceversa se la passano tuttora male, talvolta malissimo e senza speranza, sentirsi dire che invece, contrariamente alla loro esperienza quotidiana, le cose si stavano mettendo bene, deve essere suonata come una beffa, deve aver provocato un effetto di esclusione, di immeritata colpevolizzazione. 2. A una conferenza stampa o a una riunione di responsabili acquisti di catena di supermercati puoi comunicare attraverso le slide. A una massa di cittadini e elettori, no. Di un discorso complesso la gente comune può capire spesso la metà, ma capisce che se le si rivolge in quel modo significa che la si tiene in considerazione, che la si ritiene importante. Renzi non ha mai parlato al paese in modo alto e eloquente, starei per dire in modo serio. La sola cifra di serietà del suo discorso è stata solitamente quella del sarcasmo. 3. La mancanza di posizioni critiche vere, argomentate e conseguenti di qualunque tipo verso le élite del potere che non fossero le élite politico-parlamentari o mediatiche italiane. 4. La politica dei bonus, gli 80 euro ai lavoratori dipendenti, 500 insegnanti neodiciottenni. E infine 5. Il tratto marcato di consorteria toscana che Renzi non ha esitato a dare all'intera vasta cerchia dei suoi collaboratori. Questi sono i 5 punti in questo lungo editoriale di Galli della Loggia sul Corriere della Sera, per cui secondo lui Matteo Renzi ha perduto questa sfida. Parla anche il presidente di Confindustria Boccia, intervistato da Enrico Marro per il Corriere della Sera, un'intervista di una pagina, pagina 17, Boccia avverte sul voto, Boccia che ha detto Confindustria era schierata per il sì. La vittoria del no, le priorità restano crescita e competitività. Perché decise di schierare Confindustria per il sì, presidente? Per tre ragioni, risponde Boccia. Primo, l'Italia sta nell'euro, non può permettersi deficit di competitività. Secondo, è necessario semplificare i rapporti tra Stato e regioni. Terzo, per coerenza con la storia di Confindustria che dagli anni 90 insiste per il superamento del bicameralismo. Non sono pentito. Confindustria è un corpo intermedio, non un partito. E alla proposta addirittura di Salvini, che dice si dimetta, non rispondo alle provocazioni, risponde Boccia. Quanti imprenditori hanno votato per il no? Non lo so. Non penso tanti, risponde il presidente di Confindustria. Ho girato molto in questi mesi, in tutte le assemblee ho visto una grande convinzione per il sì, ma rappresentiamo 150.000 aziende, il 90% con meno di 100 dipendenti, altro che poteri forti. E alle domande che governo auspica, risponde Boccia, non rispondo, ripeto, non siamo un partito, anche sulle elezioni anticipate, Confindustria è interessata ai programmi dei partiti su economia, riforme e al fatto che facciano presto. Così il presidente di Confindustria intervistato sul Corriere della Sera. C'è da dire che ovviamente ci sono i viaggi al Senato dove Razzi gongola, no? Si va sempre da Razzi, chissà perché, quando bisogna fare sempre la rappresentazione macchiettistica del Senato, perché parliamoci chiaro, è questo, si va sempre da razzi. Al CNEL, no? Le avete viste tutte queste parodie? Anche noi abbiamo un po' giocato alle 6:30 sulle feste possibili al CNEL. Repubblica racconta di abbracci e pasticcini. Per la verità, il vicepresidente del CNEL, Giampaolo Gualaccini, intervistato da Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, trovate l'intervista pagina 10 e 11, dice: niente fiumi di champagne, ma che trenini, bottiglie stappate. Contrariamente a quello che si racconta, non abbiamo festeggiato. Io ero a casa quando ho capito che il no era in vantaggio, ho sentito il mio presidente Napoleone. Eravamo contenti, questo almeno lo ammette il vicepresidente. Poi abbiamo detto: ora abbiamo una responsabilità grande, dobbiamo dimostrare di essere utili al governo e al Parlamento, cioè a tutto il paese. I dipendenti come hanno vissuto questo referendum? Tranquillamente, risponde il vicepresidente al Fatto Quotidiano. Bah, insomma, chissà se tranquillamente o no. Chi ha vissuto tutto tranquillamente? È il nostro Mauro Meazza, sereno, pacifico. Non si votava sì, no sul licenziamento di Mauro Meazza. Peraltro avrebbe vinto il no e quindi... serenità, serenità, Mauro. Grazie, grazie caro Alessandro. Comunque mi auguro che questo tipo di referendum, questo sul mio licenziamento, ci non si debba mai tenere, perché non so, ecco, meglio non sfidare la sorte. Ti vorrei dire comunque che ci sarebbero delle cosucce da fare, governo o non governo, nuovo governo. Che noi riepilogheremmo sommessamente, ma puntigliosamente, mi viene da dire, alle pagine 14 e 15 di oggi. Cioè, ci sono tutta una serie di cosucce, non solo nella legge di bilancio, ma ad esempio c'era tutta una fase 2 per la previdenza integrativa, quindi le pensioni, poi le infrastrutture e altro ancora. Beh, insomma, tutte cose che restano un po' lì, adesso capiamo che fine andranno a fare. Intanto ti segnalo che comunque il decreto legge fiscale, come sai, la pericena della manovra, sì, quello invece è già legge dello Stato, e quindi noi oggi ti spieghiamo che cosa cambia per i termini delle dichiarazioni. Ma non solo, caro Alessandro, non solo, perché c'è anche una norma molto importante che riguarda i trasfertisti, che non sono i lavoratori in trasferta, sono una categoria fiscalmente e previdenzialmente diversa, ma trovi tutto spiegato in norme e tributi, sezione che tu leggerai religiosamente. No, eri distratto, stai cercando di capire se ti chiamano per fare il nuovo governo. È che c'è un referendum al volo sul licenziamento di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Ah, santa pazienza. Qualcuno propone. Devo fare dei comitati per il sì, per il no, insomma, fammi sapere. Oh, ti vorrei dire poi, c'è un articolo da meditazione molto interessante, perché devi sapere che l'agenzia che decide le regole di investimento della finanza islamica ha detto che si può anche investire in oro. È una cosa importante, leggi sulle pagine di finanza, medita sulle pagine di finanza l'articolo di Sissi Bellomo. Poi ti voglio anche segnalare, c'è molto del voto naturalmente, delle reazioni dei mercati su Sole 24 Ore oggi, ma anche una lettura sul voto al centro delle città e nelle periferie delle città. Anche questo te lo consiglio come articolo da meditazione. Bene. E infine, ma non per ultimo, non per questo meno importante, è martedì e quindi c'è la pagina. Il condominio. Oh, e parliamo di IMU e TASI, IMU, TASI e le incombenze degli amministratori di condominio. Ti ricordi, era vecchia, TASI e paga. Me la ricordo. Ecco, con questo viatico, diciamo, ricordando che appunto ci sono queste imposte che restano, referendum o meno, io, caro Alessandro, ti saluto, spero di ritrovarti domani a questo punto, se non c'è un referendum. Sul tuo o sul mio nome, staremo a vedere. Intanto, traffico! Alessandro Milan, le occhiaie dell'informazione! Su questo non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio, cari ascoltatori, come si può vedere dal video che sto mostrando in questo momento. Eccolo qua, vedete, metti un'inquadratura di tre quarti. Bene, è tutto chiaro, no? Si vede in maniera evidente. Allora, c'è anche altro nel mondo e anche sui giornali a parte il referendum. Vi segnalo una bella analisi di Chiara Saraceno sulle culle vuote, non solo in Italia, ma in Europa. L'Europa non investe sul capitale umano, su Repubblica, pagina 21. Nessun paese europeo, a eccezione della Francia, ha un tasso di fecondità tale da consentire il mantenimento dell'attuale volume della popolazione pari a 2 figli per donna. Vi è prossima anche l'Irlanda, che ancora negli anni 90 aveva il tasso di fecondità più alto tra tutti i paesi dell'Europa occidentale, ma oggi è in fase discendente, un tasso di 1,96. La distanza dalla soglia che garantisce la stabilità della popolazione è tuttavia molto diversa tra paesi. Ci sono quelli come Regno Unito e Svezia che hanno tassi superiori all'1,8 figli per donna e soprattutto stabili, se non in aumento. Lo stesso vale per paesi come l'Olanda, un tasso più basso, 1,7, ma sempre superiore a quello degli anni 90 e 2000. All'estremo opposto ci sono paesi che i demografi definiscono a bassa fecondità, inferiore a 1,5 figli per donna, tra cui vi sono quasi tutti i paesi mediterranei, escluso Cipro, e invece inclusa l'Italia, e anche un buon numero di paesi dell'est europeo. Questa analisi è interessante, si investe poco nel capitale umano, questo è quello che fa notare Chiara Saraceno, e l'Italia è uno dei paesi in cui si fa meno figli. Questo è il dato di fatto. Cronache, Mario Gerevini racconta, pagina 25 del Corriere della Sera, di come Michel Hunziker abbia battuto il fisco. Vinta la causa con il fisco sia da Michel Hunziker ma anche da Bianca Balti, top model 32enne, ma anche da Luca Laurenti, anche da Alba Parietti. La storia più corposa del giornale riguarda Michel Hunziker. Michel Yvonne Hunziker contro l'Agenzia delle Entrate per una cartella esattoriale da 119.478,47 euro recapitata per presunta evasione IRAP 2008. La commissione tributaria regionale a cui aveva fatto ricorso aveva confermato tutto, ma ora la Cassazione ha dato ragione a Michel Hunziker. Tra l'altro, particolare ovviamente gossiparo, tra le carte della 39enne conduttrice TV appare anche il suo incasso 2008, 2.665.246 euro. Già vi vedo lì tutti invidiosi, ammazza, oh, 2.600, ah, il capitolo Hunziker, vabbè, se li ha guadagnati che deve fare. Comunque, in Cassazione ha avuto ragione, e quindi alla Showgirl questa cartella da 119.000 euro è stata annullata. Hunziker, fisco 2-0. Questo è il dato di fatto riassunto da Mario Gerevini. Invece vi segnalo questa. Dal giornale Massimo Veronese, il re dell'azzardo scomunica le slot. Mr. Paddy Power, cioè il fondatore del più grande bookmaker britannico, si chiama Stuart Kenny, avrebbe scritto, condizionale, è il Times che rivela tutto questo, avrebbe scritto in segreto al governo irlandese, che sta decidendo se legalizzare o meno le macchinette mangiasoldi, dicendo: vogliamo scongiurare questa catastrofe. Cioè, non so se avete capito, è praticamente il re dell'azzardo che però di nascosto, secondo il Times, ha scritto al governo dicendo che scommettere è peggio di drogarsi, distrugge la salute mentale, le sale giochi sono cimiteri viventi abitati da zombie. Tutto questo, in qualche modo, non con queste parole ovviamente, ma è ciò che ha consigliato di fare il fondatore di Paddy Power. Questo riferisce il Times. È incredibile, il re dell'azzardo, incredibile. Comunque, il fondatore dell'agenzia di scommesse dice: sono come una droga e quindi non fatelo. Bene. Vi segnalo invece, dal Giorno e da Libero, c'è un signore che ha lasciato all'apice del successo perché è costretto dalla moglie. La moglie che ha detto al presidente della Repubblica, non della Repubblica, al presidente del governo, al premier ha detto: o stai al potere o perdi me. E lui, il premier neozelandese John Key, ha lasciato il governo. Diktat della moglie, o me o il potere, e il premier molla la poltrona. Succede in Nuova Zelanda. Mentre qui c'è una carta costa dedicata agli alberi di Natale, pagina 25 di Repubblica, un'intera pagina di Sconcita Sannino per raccontare. Turistico o d'autore? Eccola qui, la sfida tra i maxi alberi a Napoli. Ma chi se ne frega?